Un omino piccolo piccolo di Giulia Barra. C'era una volta un bambino che aveva paura del buio. Tutte le sere, se la mamma o il papà dimenticavano di accendere una piccola luce prima di chiudere la porta, il bambino cominciava a piangere. Una sera, dopo che la mamma era già andata a dormire, il bambino, nella sua cameretta con la sua piccola luce, non riusciva a prendere sonno. Ad un tratto andò via la luce e il bambino cominciò a piangere, quella sera però in silenzio. Dopo poco sentì vicino al suo piccolo orecchio una vocina che diceva: «Perché piangi?» «Perché ho paura del buio», rispose il bambino. «E che cosa ti fa paura del buio?» chiese ancora la vocina. «Tutte le cose che non posso vedere!» La vocina per qualche minuto si spense in un silenzio perplesso. «Non capisco», chiese ad un tratto. «Cosa?» chiese il bambino che aveva smesso di piangere. «Come fai a non vedere nulla?» «Ma se non c'è la luce non si vede niente», disse il bambino un po' indispettito. «Ma non lo so tu, ma io vedo molte più cose quando è buio», disse la vocina. «Io se vedo qualcosa vedo solo mostri cattivi», disse il bambino, con un tono di voce come se stesse per ricominciare a piangere. «Beh, fai male, non dovresti vedere mostri. Poi va a finire che fai anche brutti sogni», disse la vocina in tono di rimprovero. «Ma come faccio? Non sono mica io a decidere di far venire i mostri!» La vocina, che adesso era diventata un omino piccolo piccolo, lo guardò con stupore e disse: «Strano! Dove vivo io? Sei libero di vedere quello che vuoi quando sei al buio. E tutti quanti, quando hanno un po' di tempo, si chiudono nella loro cameretta, spengono la luce e pensano a tante cose belle, magiche, fantasiose, che normalmente non puoi vedere in giro per strada mentre accompagni la mamma a fare la spesa». Il bambino, un po' intimidito, disse: «Beh, io non so se qui si può fare». D'un tratto la luce tornò. E sulla porta della cameretta del bambino c'era il papà, che si era svegliato poco prima che la luce tornasse e che sapeva che il bambino aveva paura del buio. «Tutto bene, piccolino?» chiese premuroso. «Sì, papà». Solo allora il bambino si accorse che l'omino non c'era più. Il papà venne vicino al suo letto, lo baciò sulla fronte e gli augurò la buonanotte. Mentre usciva dalla stanza e stava sulla porta, il bambino disse al papà: «Papà, per favore, puoi spegnere la luce?»